direttissima per i due ragazzi appunto arrestati ieri durante la mobilitazione sotto intorno al Senato. Se ci puoi dire insomma quali sono gli aggiornamenti per ora. Sì, allora per ora il processo ancora non è cominciato, ma a breve, nel giro di pochi minuti, comincerà. Purtroppo le denunce a carico dei due ragazzi, dei due studenti universitari, sono abbastanza gravi, hanno dato sia lesioni, resistenza e che violenza. E quindi comunque probabilmente oggi verranno rilasciati e stiamo aspettando comunque notizie dagli avvocati che sono dentro. Hanno passato la notte nella questura centrale e speriamo l'abbiano passata almeno insieme. Gli avvocati li hanno visti? Sì, gli avvocati sono entrati, ora li hanno visti. Si comunque stanno bene. Il processo è a porte chiuse, quindi oltre agli avvocati chiaramente non potrà entrare nessuno. Noi siamo venuti qua in delegazione da tutte le facoltà della Sapienza, che sono state occupate anche questa notte, e stiamo aspettando che escano e siano liberi. Ok, allora dopo questa bellissima rispondenza ci andiamo.